Il tema di questa giornata è la Chiesa, le chiese nel Trentino e nel litorale austriaco. Si tratta, direi in questo caso, non voglio portare via troppo tempo ai relatori, di uno dei casi nei quali con maggiore nettezza, con maggiore chiarezza emerge la differenza strutturale profonda che pure esiste tra queste due diverse zone italiane ed Austria. In Trentino ci troviamo di fronte ad un'area dal punto di vista linguistico compattamente italiana, nel quale quindi naturalmente a livello della vita ecclesiastica tensioni che sono presenti in zone multinazionali della monarchia si riflettono solo molto parzialmente o addirittura non trovano nessuna espressione, anche se come dirà poi il professor Benvenuti, come forse non a tutti è noto, il problema è pur sempre lievemente complicato dal fatto che i confini diocesani non coincidono con i confini linguistici. La diocesi di Trento, della quale tutto il Trentino fa parte, comprende anche la cosiddetta parte tedesca, che è una parte sia dal punto di vista demografico che dal punto di vista anche politico e culturale importante. La maggiore città tedesca del Tirolo meridionale, Bolzano, fa parte di questa cosiddetta Deutsche Landkreis della diocesi di Trento, e quindi è inserita nella diocesi di Trento, mentre d'altra parte qui il problema è più marginale, ma suscita delle proteste non tanto tra gli interessati ma negli ambienti italiani: le valli ladine fanno storicamente parte della diocesi di Bressanone, dell'altra diocesi che non sarebbe neanche il caso di chiamare sudtirolese, perché estende la propria giurisdizione anche al di là delle Alpi e comprende la stessa città capitale provinciale. Nel litorale adriatico la situazione è più complessa, nel senso che le tensioni, i contrasti nazionali si riflettono all'interno stesso della Chiesa. La Chiesa è anch'essa spesso divisa secondo queste linee nazionali che dividono tutta la vita pubblica, culturale e spirituale della regione. Anche in questo caso ci troviamo di fronte in sostanza ad una zona compattamente cattolica, con un'eccezione importante al di là del dato demografico, anche per il peso che queste comunità hanno, con l'eccezione della città di Trieste, dove è presente uno spettro di confessioni religiose molto ampie, dagli ebrei ai greci ortodossi, agli evangelici appartenenti a diverse denominazioni religiose, quindi con una grande ricchezza e un pluralismo che trova, direi, che viene rispecchiato in poche delle città della parte austriaca della monarchia austriaca, ma appunto una forte comunità ebraica è presente pure a Gorizia. Ma il costante problema è dato proprio dalla composizione nazionale così variegata, sia del corpo dei fedeli, dei credenti, sia naturalmente anche dal clero. Non voglio adesso anticipare quello che il relatore dovrà dire. Questo crea tutta una serie di problemi anche relativamente al rapporto tra la gerarchia e i fedeli, un forte ruolo dominante di pastori slavi, sloveni o croati per l'Istria fino alla prima guerra mondiale, in particolare per quanto riguarda Trieste, la estrazione laica della classe dirigente determina forse una certa sottovalutazione dell'importanza di questo problema, ma d'altra parte gli stessi liberali nazionali sono in certi momenti sensibili alla funzione che il clero può avere come aiuto nella politica di difesa nazionale di cui si è già parlato. Per concludere rapidamente, un altro aspetto che è abbastanza interessante anche in chiave comparatistica, è stato detto ieri di come o l'altro ieri di quanti sacerdoti fossero deputati al Reichstag o all'Landtag in Alsazia-Lorena, il caso di questi sacerdoti politici è frequente nei Gorziani, è frequente in Trentino, è frequente in Istria. Solo Trieste non esprime, per le ragioni che si è detto, dei deputati che provengano dalla fine del periodo. Il professor Sergio Benvenuti ha dedicato un libro, un volume che è uscito proprio all'interno della collana dell'Istituto Storico Italo-Germanico alla Chiesa, a Trento in periodo austriaco, soprattutto ai vescovi e alle caratteristiche religiose e politico-nazionale dei singoli episcopati. Ha dedicato poi tante ricerche alla vita politico-nazionale, alla vita religiosa di questo territorio, si è occupato anche della situazione religiosa dell'Alto Adige in periodo fascista e come spettro di problemi e nello stesso tempo anche come approfondimento proprio di questo specifico tema per periodi diversi, è senz'altro la persona più indicata a parlare a noi oggi di questo tema. A fianco dell'azione politica per l'autonomia del Trentino dal Tirolo tedesco, che veniva condotta dai deputati liberali nazionali trentini nella Dieta di Innsbruck come al Parlamento di Vienna, prese vigore nella seconda metà dell'Ottocento un diffuso movimento di difesa del carattere nazionale italiano della regione. Questo movimento spaziava dal piano della cultura e della lingua a quello più propriamente politico della rivendicazione irredentistica, che dal 1861 aveva come fine l'unione del territorio trentino al Regno d'Italia. E prima, al tempo delle rivoluzioni del 48, al Lombardo Veneto. L'affermazione dell'idea nazionale nell'ambito della cultura trentina era pienamente legale, in quanto l'articolo 19 della Costituzione austriaca del 21 dicembre 1867 stabiliva che tutte le nazioni dello Stato hanno uguali diritti ed ogni singola nazione ha l'inviolabile diritto di conservare e di coltivare la propria nazionalità e il proprio idioma. Istanza irredentistica, per contro, proprio perché fondata sulla richiesta dell'unione del Trentino alla madrepatria italiana, era considerata grave reato di tradimento nei confronti dello Stato e perciò passibile delle misure previste dal codice penale austriaco. La posizione della Chiesa, dal canto suo, sul problema nazionale, non poteva che essere quella di un'istituzione fondata sulla visione universalistica propria del cattolicesimo, e quindi sopranazionale. La Chiesa non negava il valore morale della nazionalità intesa come coscienza della comune appartenenza di un popolo con la sua lingua, storia e cultura, ma era ad essa estranea la rivendicazione territoriale, l'irredentismo, che era invece patrimonio proprio del liberalismo, dei liberali nazionali. La gerarchia ecclesiastica, e soprattutto i vescovi di Trento, dall'uccidere la ricca Bona al della Bona, al Balussi, fino diremo a 17 marzo del 1904, quando salirà però sulla carta di San Vigilio Celestino Endrici, perché allora avremo veramente una svolta in questo atteggiamento. La gerarchia ecclesiastica, quindi fino al Balussi, non mancò nel corso di questi vescovi, non mancarono nel corso dei loro episcopati di dare prova di idealismo asburgico e di favorire l'elemento tedesco all'interno della diocesi, che allora si estendeva al nord fino a Bolzano e a Merano, comprendendo queste due città, e comprendeva 10 decanati di lingua tedesca accanto ai 25 di lingua italiana. La massa contadina sulla quale il clero esercitava un forte ascendente era nazionalmente passiva. Il contadino trentino era infatti generalmente di carattere tranquillo, conservatore, rispettoso del principio di autorità, elemento di ordine per eccellenza. Esso diffidava del movimento nazionale che era alimentato soprattutto dalla borghesia cittadina. Era la naturale diffidenza della povera gente nei confronti dei cosiddetti signori. Anche nei paesi era la minoranza borghese a ispirare e dirigere questo movimento. Conclusasi nel 1866 la terza guerra di indipendenza italiana, il Trentino era rimasto sotto il dominio austriaco. Prese maggior vigore allora nel paese l'istanza nazionale e l'irredentismo si manifestò con forza attraverso l'azione delle società patriottiche e della stampa liberale. La notizia dell'occupazione di Roma il 20 settembre 1870 venne accolta con entusiasmo a Trento e nei maggiori centri della provincia, Rovereto, Arriva, Lenico e in altre città. Ne riferì ampiamente il giornale Il Trentino, organo dei liberali nazionali, che già in passato aveva sostenuto ad opera principalmente dell'abate barone Giovanni Andrato una tenace campagna di stampa per la separazione del potere temporale da quello religioso, spesso in polemica con la clericale voce cattolica. Ieri sera, scriveva il giornale nel numero del 21 settembre, la nostra banda cittadina ha percorso suonando le principali vie cittadine, accompagnata da numerose torce a vento e da grandissima moltitudine di popolo. Le contrade e le piazze si illuminavano improvvisamente con bei fuochi del Bengala, sempre salutati col grido prolungato di Viva Roma. Per un delicato riguardo allo stato di salute del vescovo di Trento, Benedetto Ricabona, notava ancora il giornale, il quale era stato recentemente colpito da insulto apoplettico mentre si trovava a Roma al Concilio Vaticano I, sia la banda musicale che la folla che la seguiva si erano tenuti lontani dal palazzo vescovile. Analoghe manifestazioni di entusiasmo popolare si ebbero a Rovereto e a Riva. Per il giornale La Voce Cattolica, invece, le dimostrazioni che si erano svolte nel Trentino, come in tutta l'Italia, rivelavano che l'Italia cattolica è ora soperchiata dalla violenza di pochi, che è timida troppo e scoraggiata, ma pure ancora cattolica, perché le dimostrazioni che si succedono non sono della maggioranza della parte onorata di essa. Le polemiche tra La Voce Cattolica e gli altri giornali trentini, in special modo il Trentino, raggiunsero allora toni assai aspri. Le divergenze ideologiche si intrecciavano a quelle nazionali, provocando rilevanti riflessi nella vita politica della provincia. Se la presa di Roma aveva suscitato grande entusiasmo in chi vedeva in essa raggiunto un importante traguardo nel processo di unificazione nazionale, generava d'altronde più profondi contrasti tra i liberali e i clericali trentini. Su incitamento dell'ordinariato di Trento, i parroci di tutti i paesi della diocesi si fecero premura di raccogliere firme di protesta contro l'occupazione di Roma. Una protesta sottofirmata da ben 91.520 cittadini della diocesi venne allora inoltrata al vescovo da tre sacerdoti. Le proteste continuarono anche a distanza di vari mesi e non solo nella diocesi di Trento, nel Tirolo, ma in tutta l'Austria. L'intero episcopato cisleitano rivolse infine un indirizzo all'imperatore per sollecitare un intervento austriaco in favore del Papa. Intanto proseguiva l'opposizione del clero alle leggi confessionali di chiaro stampo giuseppino. Il nuovo governo liberale, che aveva assunto il potere in Austria agli inizi del 1868, aveva fatto votare al Parlamento il 25 maggio di quell'anno nuove leggi sul diritto matrimoniale, sull'insegnamento scolastico e sui rapporti interconfessionali dei cittadini. Queste leggi costituivano una grave lesione al concordato del 1855, opponendosi di fatto a numerosi articoli di questo. Il 2 di febbraio del 1871 il vescovo Riccabona emanava una pastorale chiamata Pastorale della Quaresima, che è emanata nel giorno della Quaresima, in cui incitava il clero e il popolo ad opporsi in nome della legge divina, come già aveva fatto recentemente per l'occupazione di Roma, alle leggi confessionali in materia scolastica che sottraevano la scuola al controllo della Chiesa per affidarla a quello dell'autorità civile governativa. La pastorale venne subito sequestrata dalla polizia. Il 10 agosto 1871 il Parlamento austriaco veniva chiuso e sciolte le diete provinciali e furono indette nuove elezioni. L'esito delle elezioni vide nel Trentino, in tutte le città e nelle grandi borgate, la maggioranza dei liberali nazionali. Solo nei circoli elettorali delle campagne vinsero i clericali che ottennero 8 deputati su 12. A capo della corrente liberale nazionale stava allora l'abate Giovanni Attrato. Questi, come deputato al Parlamento, si batté con forza per l'indipendenza del potere statale da quello ecclesiastico proprio in nome della libertà della Chiesa stessa. L'Attrato già nel 1848 aveva fatto sentire nei parlamenti di Francoforte e di Vienna vigorosa la sua voce rivendicando l'autonomia del Trentino dal Tirolo tedesco e il suo distacco dalla Confederazione Germanica. Egli aveva guidato il movimento di difesa nazionale giungendo a porre la questione trentina in primo piano davanti all'opinione pubblica europea. Da questo momento in cui nel Trentino, come generalmente in Austria, si rafforza la presenza dei liberali negli organi di governo, la lotta contro la progressiva laicizzazione dello Stato viene portata dal vescovo di Trento sul piano politico, mentre in campo liberale si accentuano le prese di posizione anticlericale. Il 19 agosto 1871 il vescovo Riccabona emanò un'altra pastorale nella quale dava direttive per l'elezione dei deputati alla Dieta del Tirolo e al Parlamento. Egli indicava la necessità di eleggere uomini in grado di difendere gli interessi della Chiesa nelle aule parlamentari. Così veniva a cessare di fatto l'astensionismo che vi era stato a lungo praticato per la questione autonomistica. Ma così si creò pure una profonda frattura tra cattolici e liberali nazionali. Questi ultimi, per lo stesso anno, il 20 ottobre, fonderanno l'Associazione Nazionale Liberale Trentina. Il 1871 vide apparire nella diocesi anche i primi movimenti dell'azione cattolica e di quest'anno la fondazione a Trento della Società della Gioventù Cattolica di San Vigilio, il cui statuto reca appunto la data 2 febbraio del 71. Con legge 2 aprile 1873 venne tolta la dieta e conferita direttamente agli elettori la facoltà di eleggere deputati al Parlamento. Venivano al tempo stesso indette nuove elezioni. Il vescovo Riccabona, colpito da un nuovo attacco del suo male, emanò allora una pastorale nella quale ricordava la gravità della situazione e l'importanza delle prossime elezioni. Egli invitava ad eleggere persone le quali nelle questioni religiose riguardanti le relazioni della Chiesa con lo Stato non presumano del loro giudizio privato, ma si attengano agli insegnamenti della Chiesa. Io non vi suggerirò, affermava il vescovo, i vostri futuri deputati. Io non sono né voglio essere considerato da voi capo di un partito, ma dall'esito delle elezioni, egli notava, sarebbe dipeso in gran parte l'avvenire del paese, cioè se esso avrebbe potuto godere di una legislazione ispirata a principi cristiani o, diceva il Riccabona, dettato dallo spirito del secolo, che per lui era essenzialmente anticristiano. Il cardinale Giacomo Antonelli, segretario di Stato del Vaticano, scrisse al nunzio a Vienna, nunzio Mariano Fancinelli, nell'ottobre del 73, che pensava fosse a conoscenza dello stato di salute del vescovo Riccabona, il quale aveva perso l'uso della parola. Si sentiva quindi urgente il bisogno, sottolineava l'Antonelli, che venisse nominato un ausiliare del vescovo e invitava pertanto il nunzio ad avviare le pratiche. Non si sarebbe dovuto perdere di vista, raccomandava ancora il cardinale, le speciali difficoltà della diocesi, la quale è composta nella maggior parte di italiani e nella minore di tedeschi. Sarebbe dunque stato necessario che il vescovo avesse sufficiente conoscenza delle due lingue e specialmente la prudenza necessaria per risparmiare la suscettibilità delle due differenti popolazioni. La persona che si voleva proporre era Monsignor Giovanni Haller, canonico del Duomo di Trento, del quale il nunzio diceva di aver avuto fino allora buone notizie e di ritenere che anche il governo nulla avesse in contrario. La scelta, notava il segretario di Stato del Vaticano, il Facinelli, è ben difficile, a cagione dei partiti, essendo Trento con Trieste le due città dove i partiti tedesco e italiano sono i più fieramente spiegati e disgraziatamente il clero ne prende le prime parti. D'altronde, scrive sempre Facinelli, non si può dar torto al governo quando non volesse accettare un rivoluzionario come avvenuto ultimamente del sacerdote Lange, professore del seminario teologico di Trento, il quale non è stato approvato dal governo come canonico perché riconosciuto italianissimo rivoluzionario. E il termine italianissimo nel linguaggio ufficiale, vero, del governativo austriaco, l'equivalente era sinonimo di irredentista italianissimo. Oltre a ciò è da tener conto che la parte italiana di Trento è continuamente minacciata dagli scritti, emissari e dimostrazioni ostili della rivoluzione italiana. Mentre era in corso l'azione della Santa Sede per provvedere alla diocesi di Trento di un vescovo ausiliare del Riccabona, il comune di Trento, nella persona del suo podestà, il conte Ferdinando Consolati, intervenne presso l'annunziatura di Vienna chiedendo che tale ausiliario fosse di nazionalità italiana. Nella lettera all'annunziatura il podestà allegava un promemoria in 7 punti, promemoria si trova nell'archivio del comune qua di Trento. Esso affermava che la popolazione della diocesi di Trento, che assommava, come appariva nel Catalogus Clerii del 72, a 497.680 abitanti, solo nemmeno un quarto di questi apparteneva alla parte tedesca, di cui la necessità di un vescovo italiano, che però conoscesse la lingua tedesca. Eccettuati i due vescovi lusci nel Cidre, tutti gli altri da oltre 3 secoli erano stati vescovi italiani, nella parte tedesca aveva mosso mai alcuna lagnanza per questo, riconoscendo come cosa equa e giusta che il vescovo venisse scelto dall'elemento prevalente di numero. L'attuale vescovo Riccabona, scriveva ancora il podestà Consolati, si era lasciato circuire e aggirare dal vescovo di Seccau, Giovanni Battista Sverger, canonico del Duomo di Trento, per opera di quest'ultimo l'elemento tedesco prese il sopravvento in modo che acquistò il predominio del reverendissimo capitolo Reliscia Curia, scrive il podestà, e anche nel seminario vescovile si può dire che l'elemento italiano della diocesi è quasi negletto e calpestato. Nel capitolo da qualche anno venivano sistematicamente introdotti i due canonici tedeschi contro la prassi costantemente seguita negli anni precedenti quando faceva parte del capitolo un solo ecclesiastico di nazionalità tedesca. La curia vescovile poi era quasi per intero occupata da persone di nazionalità tedesca nel seminario dove la direzione è più tedesca che italiana, i chierici tedeschi godevano di ogni favore e privilegio che veniva invece sempre negato ai chierici italiani. Per questa ragione, scrive il Consolati, nel seminario si è creato un dualismo che non si sarebbe potuto facilmente estirpare. Cosa sarebbe avvenuto se per sovrappiù fosse stato dato ai trentini anche un vescovo tedesco? In seguito il podestà si rivolge per lettera anche al ministro del culto, Karl von Stremeyer, sottolineando il pericolo di vedere invasa la curia tale elemento tedesco. Dopo aver scritto al nunzio e al ministro di potestà di Trento e via Vienna anche il consigliere comunale Faesco, alle persone di fiducia, per fare ulteriormente presenti quelle che riteneva essere le necessità della diocesi. Poi, nuovamente il 1 di febbraio, il podestà consolati scrisse al nunzio proponendogli come vescovo ausiliare del Ricabona Monsignor Pietro Castellani. Era un podestà che si dava quindi molto da fare, vero? Pensava in buona fede, vero? La grande importanza di un vescovo italiano, e proponeva Pietro Castellani, canonico del capitolo di Gorizia. Un'altra nomina non ben vista dai clero della popolazione trentina, sottolineava il podestà, avrebbe provocato una profonda e insanabile ferita ai nostri diritti di nazionalità e di lingua, e si getterebbe un semente di inquietudine e di agitazione laddove, per interesse dello Stato e della Chiesa, dovrebbe sempre regnare la maggior pace e il miglior accordo. Intanto il governo austriaco si era mosso ed aveva notificato al nunzio che sarebbe stato favorevole alla nomina da parte del Papa ad ausiliare di Giovanni Haller come ausiliare del vescovo di Cabona, di San Martino in Pasciria, canonico del Duomo di Trento, che già nel 1871 il Ricabona aveva nominato provicario per la parte tedesca della diocesi. Il governo non era però d'accordo di nominare Haller cum iure successionis, perché non voleva che l'imperatore venisse così privato del privilegio di nomina del successore del vescovo, una volta che si fosse resa vacante quella sede. Il nunzio insisteva invece perché Haller fosse nominato con quella prerogativa, perché secondo lui, in presenza di due partiti, italiano e tedesco, che esistono e si combattono a Trento, egli non avrebbe potuto esercitare il sacro ministero pastorale con quella efficacia e pienezza che gli darebbe la posizione più determinata e stabile di coadiutore con futura successione. Nonostante vari interventi del nunzio Falcinetti presso il ministro del culto Stremeyer, il governo austriaco rimase irremovibile. La Santa Sede fino allora, con la condiscendere, data l'urgenza di venire incontro almeno in parte ai bisogni della diocesi di Trentina, e il 14 agosto del 74, nur eine Frage, sprich wenn wir nutzen zu schnell, oder? Nein. Ja, il 14 agosto 1874 il Papa nominò Haller vescovo ausiliare di Trento. Il vescovo Ricabona rinnovava in prossimità delle nuove elezioni l'appello ad eleggere deputati sicuramente fedeli alle direttive della Chiesa, anche in previsione che sarebbero giunte in discussione alla Camera nuove proposte di leggi confessionali che, se approvate, avrebbero ancor più accelerato il processo di laicizzazione dello Stato austriaco. Le nuove leggi confessionali vennero presentate al Parlamento dal ministro Auersperg il 21 gennaio 1874. Esse riguardavano le relazioni esterne della Chiesa cattolica e risentivano l'influsso della legislazione in materia ecclesiastica che era stata approvata in Prussia dal cancelliere Bismarck. Le leggi vennero approvate nonostante la forte opposizione dei deputati cattolici e la vasta mobilitazione contro di esse promossa dal clero. L'abate Giovanni Attrato, che votò a favore del passaggio di queste leggi alla discussione in Parlamento, ritrasse in seguito il suo voto dietro la minaccia di essere sospeso ad divinis fatta dal vescovo. Il vescovo Ricabona venne a morte il 31 marzo 1879. Il 21 maggio l'imperatore accordava al nunzio un'udienza privata per trattare della situazione religiosa in Austria e soprattutto dell'importante questione delle nomine vescovili a Trento e a Bressanone. In quel tempo si era pure spento il vescovo di Bressanone, Vincenz Dasser. Parlando della nomina di un nuovo vescovo a Trento, l'imperatore notò che al presente si andava facendo un'agitazione contro Monsignor Haller, che risultava non gradito nel Tirolo. Il nunzio però sostenne ugualmente la candidatura dello Haller. Qualche giorno dopo, il nunzio discusse pure con i ministri del culto e dell'interno questa questione della nomina vescovile. I due ministri mostrarono di preferire allo Haller Monsignor Giovanni Giacomo della Moda, nativo di Gorizia, già consigliere scolastico della luogotenenza di Innsbruck e ispettore scolastico per il Tirolo. Essi dissero al nunzio che Monsignor Haller nel passato non aveva dato prove di sufficiente energia per reprimere le tendenze separatiste di una parte del clero cattolico, il quale dirigeva il ginnasio vescovile ed aveva per organo la voce cattolica di Trento, e che il medesimo era gradito alla popolazione. Commentando il colloquio avuto con i due ministri in una lettera al segretario di Stato della Santa Sede, Lorenzo Mina, il nunzio Jacobino osservava: il ministero troppo facilmente dimentica i servigi che lo stesso Haller, con la sua azione, gli ha prestato in questi ultimi anni nelle elezioni onde non riuscissero nel Trentino a favore degli italianissimi. Dopo lungo tergiversare da parte del Vaticano, che insisteva per la candidatura di Haller, alla fine la spuntò il candidato favorito dal governo, e il 30 novembre nel 1879 l'imperatore Francesco Giuseppe nominava Monsignor della Moda vescovo di Trento. Il breve episcopato del vescovo della Moda dal 1879 al 1885, in questi sei anni, fu caratterizzato politicamente dall'alienismo del vescovo verso il governo austriaco, e l'atteggiamento di un vescovo a Trento improntava profondamente l'indirizzo anche del clero e del movimento cattolico. Il breve episcopato dunque della Moda fu politicamente caratterizzato dal realismo del vescovo verso il governo austriaco e della sua azione volta a favorire l'elemento tedesco della diocesi ed a frenare e tenere imbrigliate le istanze nazionali del Trentino. Il ministro dell'istruzione e culto, con ordinanza del 2 aprile 1880, aveva incaricato il luogotenente del Tirolo, Wittmann, di concordare con il vescovo di Trento l'attuazione senza indugio dei decreti emanati dal suo predecessore, che contenevano disposizioni per promuovere l'elemento tedesco nel Tirolo meridionale. Essenzialmente si trattava di offrire protezione alla lingua tedesca sul confine linguistico e nei territori tedeschi isolati all'interno della parte italiana della diocesi, di fronte alla tenuta penetrazione dell'italiano. La spinta verso nord con l'asse dell'Adige, dovuta anche a lavoratori in parte stagionali, in parte di permanenza, ovvero rimanevano permanentemente sul territorio, lavoratori che venivano in gran parte dal Bellunese, dal Trevisano, e portavano naturalmente anche le loro famiglie e diffondevano quindi la lingua italiana, la tenuta avanzata verso nord della lingua italiana, c'erano degli italiani. Il luogotenente fornì al vescovo i nomi di alcuni curati da trasferire, soprattutto nella Valle dei Mocchi e nella Alte Valle di Nomi. Egli richiamò poi l'attenzione del vescovo sul clero regolare di lingua italiana, verso il quale si sarebbe dovuto ricorrere ai più severi mezzi di coercizione qualora da parte dello stesso si fosse rilevata un'attività sovversiva nei comuni tedeschi ai confini linguistici. Nelle zone come attività sovversiva, naturale che non si parlava di certo di rivoluzioni, comunque un'attività di propaganda italiana che era vista però come attività sovversiva per il timore di irredentismo. Nelle zone minacciate non si sarebbe dovuto permettere l'inserimento di religiosi italiani né maschi né femmine, e le relative comunità che già esistevano e facevano propaganda per l'elemento italiano in forza della legge erano da allontanarsi oppure da sorvegliare e contenere rigidamente nella loro attività e propaganda. Infine, il luogotenente trattava ancora un punto che si riferiva alla formazione di una generazione di sacerdoti che ha in simpatia l'elemento tedesco e ne conosca la lingua, e ciò nel seminario teologico e in quello dei ragazzi. Riguardo al primo istituto, al seminario teologico, si domandava al vescovo che, oltre all'organizzazione dell'istruzione, dedicasse tutta la sua cura nella scelta di fedeli funzionari per l'educazione dei chierici. Per il seminario dei ragazzi, poi, il ministro per l'istruzione e il culto attendeva la presentazione di un piano dettagliato che indicasse come e con quali mezzi sarebbe potuta venire promossa la formazione di un clero tedesco da questo seminario, mentre per parte sua si dichiarava pronto a sostenere anche sacrifici finanziari per l'attuazione dello scopo patriottico, il patriottismo austriaco. Il vescovo così rispondeva alla lettera del luogotenente: sarà in ogni tempo mia preoccupazione respingere con tutti i mezzi a disposizione ogni minaccia all'elemento tedesco ovunque si dovesse presentare, e non mancherò di indirizzare costantemente quanto si conviene perché i posti di cura d'anime nei distretti di Enna e di Caldaro, quindi la zona mistilingue, come pure in quei territori tedeschi isolati, le isole linguistiche, però di piano di Lavarone, in particolare, siano tenuti da sacerdoti tedeschi. Venuto a morte il 17 novembre 1885 il vescovo della Bona, l'arcivescovo di Salisburgo e i vescovi suffraganei pensarono come a suo successore al coadiutore dello stesso arcivescovo, Monsignor Giovanni Haller, il quale già era stato proposto a quella sede nel 1879, ma come abbiamo visto non aveva potuto essere nominato per l'opposizione incontrata presso il governo. Il ministro del culto per parte sua insistette nella sua relazione all'imperatore perché venisse nominato vescovo di Trento Monsignor Eugenio Carlo Valussi, vicario del capitolo di Gorizia e già deputato per il Friuli al Parlamento di Vienna, il quale sottolineava curava più gli interessi dello Stato, mentre lo Haller aveva in vista esclusivamente quelli della Chiesa. Erano trascorsi 6 mesi dalla morte del vescovo della Bona quando, il 24 aprile 1886, l'imperatore nominava vescovo di Trento il Valussi, e il 7 giugno successivo venne la conferma da parte del Papa. L'accordo tra deputati liberali e clericali trentini, raggiunto nel 1885, che aveva consentito la formazione di un club autonomo trentino per la difesa degli interessi economici ma anche nazionali del Trentino, non passò senza reazione da parte del clero più conservatore che temeva una penetrazione delle idee liberali al suo interno. Giunsero così al nuovo vescovo, a poco della sua nomina, delle allarmate lettere di parroci e curati preoccupati della tenuta adesione di vari sacerdoti alle idee liberali e nazionali, soprattutto per le idee liberali, e della loro alleanza politica con i liberali. Il clero trentino era allora diviso tra coloro che seguivano l'indirizzo cattolico nazionale, aperto alla collaborazione con i liberali sul piano strettamente parlamentare, e coloro che non vi aderivano. Questo nuovo indirizzo, ben diverso da quello dei cattolici liberali, in quanto non recepiva in nulla l'ideologia liberale, che anzi apertamente contrastava, si dichiarava per bocca di uno dei suoi maggiori esponenti, Don Emanuele Bazzarella, sinceramente cattolico col Papa in religione e cattolicamente nazionale con l'imperatore in politica. L'idea nazionale era fatta propria dai cattolici nazionali in modo strumentale per togliere di mano ai liberali, come essi dicevano, la loro arma più pericolosa. Esponenti di rilievo di questo indirizzo clerico nazionale erano, oltre al nominato Bazzarella, Don Antonio Brugiadolì, deputato alla dieta di Innsbruck, e Don Giuseppe Lagge, professore al seminario teologico, e ancora Don Silvio Lorenzoni, redattore della Voce Cattolica. Il vescovo Balussi dapprima temporeggiò, anche perché non conosceva a fondo la situazione trentina, e si sforzò di mettere d'accordo le opposte tendenze del clero, facendo da mediatore, anche se appariva abbastanza chiaro che egli non propendeva per il clerico nazionale, dati i suoi forti sentimenti filoascurgici, ma il vescovo si preoccupava soprattutto di evitare rotture all'interno del clero trentino. A differenza di quanto si era verificato durante l'episcopato del vescovo della Moda, quando in occasione delle elezioni politiche il clero e lo stesso vescovo erano intervenuti in forma pressante a indirizzare gli elettori cattolici sui singoli candidati da eleggere, durante l'episcopato del Balussi tale intervento, pur sempre zelante nel raccomandare di votare candidati cattolici, lasciò però maggior libertà sui nomi da scegliere. Evidentemente l'esistenza di due correnti politiche che coinvolgevano lo stesso clero, quella dei clericali nazionali e quella dei conservatori, rese il vescovo e l'ordinariato più prudenti nel timore di suscitare contrasti che avrebbero potuto mettere in pericolo l'unità dei cattolici trentini. Su tale atteggiamento della Chiesa trentina forse influì quanto avveniva allora in un diverso contesto statale e politico nel Regno d'Italia, dove una circolare del Santo Ufficio aveva dato valore obbligatorio a quel non expedi che nella sua prima formulazione, in occasione delle elezioni del 74, aveva voluto essere un semplice consiglio privo di carattere precettivo. Del resto lo stesso vescovo Balussi si richiamò in seguito, quando più forti si erano fatte le pressioni dei clericali nazionali perché prendesse una chiara posizione in loro favore, l'atteggiamento assunto dalla Chiesa di Roma in relazione agli interventi in materia politica. È dovere dell'autorità della Chiesa di temperare se stessa, scriverà il vescovo, e di non proferirsi senza valide ragioni. Certe volte la Chiesa pronuncia il non expedi che corrisponde a non lice, ma non è sempre così. Molte volte l'autorità non emette precetti, ma preferisce mostrarsi per via più mite. Se il vescovo Balussi sapeva assumere posizioni ferme, come nel caso della questione rosminiana, quando riteneva in pericolo l'ortodossia cattolica e necessario ristabilire l'obbedienza alla Santa Sede, egli d'altronde non si mostrava alieno da intervenire personalmente in favore di qualche sacerdote che fosse in corso di sanzioni governative a causa di atteggiamenti poco ortodossi in senso nazionale. E qui si potrebbero documentare più casi. Più volte il Balussi fu costretto a interessarsi, in seguito poi a reclami della luogotenenza, anche della questione dell'inno imperiale che doveva venire suonato nelle chiese in occasione del Natale e del giorno genetriaco dell'imperatore. Questione questa di non poco conto, dato l'alone di religiosità che l'autorità governativa si sforzava di mantenere attorno alla figura del sovrano. Il Balussi cercò diplomaticamente di scagionare dei sacerdoti che si erano resi responsabili di non aver fatto suonare l'inno imperiale, sia adducendo la giustificazione della loro non disponibilità in quelle chiese, della non disponibilità in quelle chiese del coro, sia ricordando che per usanza non databa che da pochi anni. Il vescovo Balussi veniva a morte l'11 ottobre 1903. Gli succedeva il vescovo Celestino Endrici, che l'imperatore nominò il 3 gennaio del 1904. E gli succedeva in un momento di particolare tensione sul piano politico nazionale trentino. La questione universitaria, l'affermarsi del socialismo, il contrasto nella parte tedesca della diocesi tra conservatori e cristiano-sociali, l'invadenza del Tiroler Volksbund, erano tutti problemi attuali e urgenti che il nuovo vescovo si trovò a dover affrontare. Uno di questi in particolare, quello che si riferiva alla sua azione rivolta a contrastare l'attività del Volksbund in difesa degli interessi religiosi e nazionali dei trentini, fu determinante per l'opera e la stessa vita delle intrici. I dirigenti dell'associazione pangermanista non gli perdoneranno infatti mai di essersi opposto con tanta fermezza ai loro piani. Scopo del Volksbund, che venne fondato il 7 maggio 1905, di questo già ampiamente di sicuro parlerà il dottor Zaffi questo pomeriggio, era fondato a Vipiteno nel 5, era secondo il suo statuto di coltivare l'antica e provata fedeltà tirolese verso la patria, coltivare la fedeltà pronta ai sacrifici verso quanto è nazionale in lingua, leggi e diritti, forze e costumi in tutta la provincia, ma principalmente sui confini nazionali. L'opera della Lega tedesca non tardò a manifestarsi nella parte italiana del Tirolo, specialmente nei comuni sul confine linguistico dell'Alta Valle di Non e della Valle di Fiemme, nel territorio mistilingue fra Salorno e Dora, oltre che nelle isole linguistiche della Valle del Fercine e sull'Altipiano di Folgarina. In realtà il Volksbund tendeva alla germanizzazione di quei territori. Tale sua azione sollevò una forte opposizione da parte delle associazioni nazionali trentine, prima fra tutte la Lega Nazionale e del Partito Liberale. Ma anche la Chiesa trentina e il Partito Clericale non rimasero indifferenti di fronte a una penetrazione che sotto sotto favoriva la diffusione del protestantesimo nei territori in cui tendeva ad affermarsi, anche se forse vi fu questo pericolo, un'esagerazione da parte di alcuni. Il 17 settembre 1911 il vescovo Endrici indirizzerà un telegramma agli studenti che partecipavano al 14° congresso universitario cattolico a Levico, nel quale, dopo aver incoraggiato i giovani alla difesa degli ideali cristiani, esprimeva l'augurio che il congresso servisse ad educare i giovani fieri tradizioni cristiane, italianità insidiata dalle giuste straniere invadenze del Volksbund. Il telegramma ebbe un'eco positiva nella stampa cattolica e liberale, ma suscitò vivaci reazioni negli ambienti pangermanisti. Nel corso del 1909, il vescovo Endrici decise di dare una direzione unitaria al collegio convitto vescovile di Trento, che era diretto da Don Niccolò Bettini, e per il settore amministrativo e disciplinare da Don Vigilio Zanolini, che era il prefetto di studio. L'incarico di direttore del collegio venne affidato a Don Carlo Sogni Mezzacorona, che era professore di lingue classiche in quel ginnasio. A portare le Endrici a questa decisione, destinata a suscitare la vivace reazione di quanti tra il clero e in generale tra gli stessi studenti apprezzavano l'opera svolta dai due stimati ecclesiastici, ebbero certamente un ruolo importante i suggerimenti particolarmente influenti di Don Guido De Gentili e di Don Ludovico Eccheli. Questi due prelati miravano ad un cambiamento di indirizzo del collegio vescovile per far sì che da esso uscissero più numerosi laici in grado un domani, quali laureati cattolici, di occupare posti direttivi. Quei posti erano allora quasi tutte nelle mani dei liberali, in quanto gli intellettuali trentini aderivano in maggioranza a quel movimento. Ma ci furono anche altri motivi alla base della decisione del vescovo. Notava Monsignor Giovanni Bresciani, in un lavoro rimasto inedito, il seminario minore vescovile di arcivescovile di Trento, del lavoro del 1954, l'ho trovato da filo scritto presso la biblioteca archivio del seminario minore. Allora le concezioni politico-sociali del tutto non combinavano tra curia e collegio. Don Bettini e Don Zanolini erano della scuola di Don Antonio Crujabolin, deputato alla dieta tirolese, attivo fautore dell'autonomia trentina, e non caldi per il partito dominante popolare, partito che si era costituito a Trento nel 1905. questo partito popolare aveva nel suo programma quella formula della coscienza nazionale positiva, formula che era fatta propria da un deputato Alcide De Gasperi, che gli significava difendere l'autonomia, l'individualità nazionale del paese, però all'interno dell'impero, difesa attraverso un'indipendenza nazionale ma anche economica. I giornali tedeschi attribuirono il cambiamento di direzione del collegio vescovile a motivi legati al sospetto irredentismo dei due sacerdoti. Il deputato Alcide De Gasperi scrisse in questa occasione al vescovo per conoscere ufficialmente come stavano le cose e poter eventualmente controbattere dalle colonne del suo giornale, il Trentino, a quanti volevano coinvolgere il vescovo in una questione di natura politica. Nel giugno 1912 venne eletto, era stato scritto dal direttore del giornale di Bolzano, il Tiroler Volksblatt, Josef Burger. Esso attaccava il vescovo di Trento, in genere il clero trentino, accumulati nell'accusa di irredentismo. Il vescovo Endrici definì infamante e calunniosa questa pubblicazione. L'opinione pubblica sia trentina che tedesca ne rimase impressionata. Di questo opuscolo si parlò anche la delegazione del Parlamento a Budapest e il deputato Alcide De Gasperi intervenne rilevando la falsità delle accuse contenute nella pubblicazione stessa. La campagna mossa dalla stampa tedesca a base di accuse di irredentismo al clero trentino e allo stesso vescovo e poi questo opuscolo di irredenta avevano reso l'autorità politica sospettosa nei riguardi del clero della diocesi trentina. Il luogotenente di Innsbruck, Markus von Spiegelfeld, informò nel settembre del 12 Endrici che due parroci invitati dalla società patriottica dei veterani a suonare le loro chiese l'inno dell'impero e il Te Deum si erano rifiutati e erano stati invitati a suonarli in occasione del genetriaco di Francesco Giuseppe. Il luogotenente chiedeva nel contempo al vescovo di dare opportune istruzioni al clero perché in occasione della festa natalizia dell'onomastico dell'imperatore venisse celebrata una messa solenne accompagnata dai canti del Te Deum e dell'inno all'impero. Ciò, sottolineava il luogotenente, varrebbe indubbiamente a far risaltare la lealtà e i buoni sentimenti dei rispettivi parroci in vista che sarebbe escluso qualsiasi malinteso deplorevole. Endrici rispose al luogotenente cercando di scagionare i parroci dell'accusa di scarso patriottismo austriaco. E il barone Spiegelfeld ringrazierà il vescovo per la compiacenza dimostrata in questa delicata faccenda. Ma se questo motivo di attrito fra il vescovo e il nuovo tenente era rientrato, un altro più grave stava per nascere. Il commissariato di polizia di Trento, nell'ottobre del 12, aveva informato la luogotenenza di Innsbruck che presso il ricrattorio parrocchiale di Santa Maria Maggiore era stato suonato al pianoforte l'inno della Lega Nazionale e subito dopo quello di Garibaldi. Nuovamente, a poca distanza di tempo, lo stesso commissariato segnalava la loro tenenza che nel ricreatorio vescovile era stato suonato l'inno a Tripoli tra l'entusiasmo dei presenti. Anche questa volta il vescovo ridimensionò la cosa e assicurò che avrebbe vigilato perché fatti simili non si verificassero. Il vescovo Endrici in seguito dovette dare ragione dei fatti anche al ministro dell'istruzione e culto Maximilian Husarek. Il 25 luglio del 1913 il vescovo pubblicava sul Foglio diocesano di Trento per la parte italiana il suo scritto Doveri dei cittadini cristiani verso il principato civile con speciale riguardo al clero. Lo scritto appariva nel momento in cui più forti si manifestavano le critiche dei governi della stampa nazionale tedesca al vescovo e al clero trentino accomunati nell'accusa di irredentismo. In esso, in questo scritto, il vescovo si richiamava alle lettere encicliche del Papa Leone XIII, Iuturnum immortale Dei e Sapienze Cristiane, che riguardavano i principali doveri dei cittadini cristiani verso il principato civile, cioè nei confronti del governo. I doveri dei cittadini e del clero verso lo Stato, chiamati anche doveri di patriottismo, per le Brigi erano parte integrante della morale cristiana. Essi si ponevano al di sopra delle lotte politiche nazionali e di quelle tra i partiti, e allo stesso modo dei doveri dei figli verso i genitori costituivano un patrimonio comune di tutti i cattolici dell'impero. Il vescovo difendeva poi il clero trentino dai sospetti e dalle accuse di essere venuto meno ai suoi doveri verso lo Stato. Secondo l'insegnamento della Chiesa enunciato dal Papa, ricordava Lettrici, i doveri del clero verso lo Stato erano essenzialmente due. Il primo consisteva nell'insegnare e inculcare, con parole delle Lettrici stesso, alle popolazioni in chiesa e in scuola e nelle istituzioni educative il sentimento e l'obbligo di obbedienza e fedeltà al principato civile e alle autorità costituite, delle quali è capo supremo e sovrano. Il secondo dovere stava nel pregare assieme al popolo perché la sacra persona del sovrano e della sua augusta famiglia venga assistita dall'alto, da Dio, dall'alto dei suoi dubbi nel governo dei popoli. Riguardo al primo dovere, la Chiesa insegnava che l'autorità politica veniva da Dio, per cui era necessario che i cittadini fossero soggetti ed obbedienti ai principi come a Dio, e ciò non tanto per timore delle pene quanto per riverenza della maestà, per coscienza del dovere. Cristo stesso aveva, come stava scritto nel Vangelo di Matteo, aveva comandato di rendere a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Disobbedire al potere legittimo, qualunque sia la persona che ne è investita, non è lecito più che quello che sia l'opporsi al volere divino. Solo quando fosse stato comandato qualcosa di iniquo, allora si sarebbe dovuto rispondere coraggiosamente, secondo l'esempio degli apostoli, far luogo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Era senz'altro impresa ardua per il clero trentino e per lo stesso vescovo conciliare sul piano pratico l'enunciazione del principio del dare a Cesare quel che è dovuto a Cesare, che comportava il realismo asburgico, con l'azione di tutela dei diritti della nazionalità, i quali, pur garantiti dalla Costituzione austriaca del 1867, di fatto a volte venivano conculcati dalla stessa autorità politica. Di quell'azione di tutela si era fatto carico il vescovo in persona nella sua ferma e tenace opposizione all'invadenza del Volksbund in alcune valli trentine. Per Lendrici, il secolare contrasto in Austria tra Chiesa e Stato, generato dal giosefinismo, aveva le sue cause più profonde nella struttura stessa politico-nazionale dell'impero. Un'amalgama di una decina di popoli che appartengono ad una nazionalità diversa, scriverà nell'esilio di Heiligenkreuz in un lavoro sul giosefinismo prima studente, però illuminante per conoscere il pensiero più profondo delle Lendrici, non quello espresso nella pubblicazione di cui prima si è fatto cenno. Mancava a quei popoli dell'impero austro-ungarico, secondo le Lendrici, la comunanza di sangue e di lingua, fondamento stesso del concetto di patria. Essi non potevano quindi avere nell'Austria una patria comune. L'unità statale, lo Stato uno, rappresentava un'unità estrinseca ed accidentale che nulla aveva a vedere con quello di patria una. Del tutto ingiusto era poi definire il redentismo, reato che in Austria, abbiamo detto, veniva severamente condannato come tradimento nei confronti dello Stato. Del tutto ingiusto era poi definire il redentismo il sentimento che ogni popolo manifestava naturalmente verso la propria nazione e che si esprimeva attraverso l'amore alla propria lingua e cultura. Il vescovo usava parole forti per condannare il sistema di oppressione delle nazionalità minoritarie dell'impero. Quale differenza di pensiero tra la dura condanna dei tentativi di snazionalizzazione da parte delle Lendrici e le affermazioni che mezzo secolo prima il vescovo Benedetto Riccabona aveva fatte in una lettera alla luogotenenza di Innsbruck a proposito del Deutschtum, lo spirito nazionale tedesco, il germanesimo, che gli auspicava di mantenere nella diocesi e nella stessa città di Trento. E quale differenza ancora tra il concetto di patria quale nazione delle Tricci e quello del vescovo Giovanni Haller, coadiutore del vescovo Riccabona, che in una pastorale al clero e ai fedeli, pubblicata nel Foglio Diocesano di Trento nel 1879, aveva scritto: «Là trovasi la tua patria dove trovasi l'autorità di cui sei per divina disposizione subito, là dove governa Rodolfo d'Asburgo», il discendente di Rodolfo d'Asburgo. «Là trovasi la tua patria dove trovasi il tuo augusto imperatore, le cui beneficenze vengono narrate quasi da ogni valle e villaggio. Tu devi dunque fedeltà e attaccamento al tuo imperatore e all'impero che esso governa. È tuo dovere di allevare e confermare i tuoi figlioli in questa fedeltà e in questo attaccamento. Se tu non fai, se tu infondi nel loro giovane cuore sensibile a qualunque impressione, in luogo di fedeltà e amore perfino alienamento ed avversione, non volerti illudere, i principi cattolici non sono giunti ad avere pieno e perfetto dominio nella tua famiglia e nella tua casa. L'Austria, come stato di popoli, per le Tricci, formava quindi una comunità sociale astratta, innaturale, imposta con la forza. Tuttavia, consapevole dell'insegnamento della Chiesa che esigeva la fedeltà dei sudditi al legittimo sovrano e gli affermava con insistenza il principio cardine del date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, ma notava pure che gli atti di ossequio dinastico non erano tali da potersi qualificare come atti di patriottismo. Il vescovo Endrici si rendeva conto di quanto potente fosse allora in Austria il germanesimo, il quale per lui costituiva la spina dorsale dello Stato, tanto che il nome stesso di austriaco presso il popolo era diventato sinonimo di tedesco. Era allora in atto la tendenza a germanizzare sempre maggiormente lo Stato e a dare ad esso un'impronta tedesca. Ciò per il vescovo portava come logica conseguenza alle oppressioni delle altre nazionalità e aveva fatto per più anni esperienza diretta dell'azione snazionalizzatrice attuata dal Tirol al Volsburg in alcune zone del Trentino. Quella società pangermanica che aveva i suoi centri in territorio tedesco era stata da lui fermamente combattuta. Verso la fine del 1913 e il principio del 1914 subentrò un periodo di calma nella campagna di stampa che i giornali tedeschi conducevano contro il vescovo e il clero accusati di fomentare l'irredentismo nella diocesi di Trentina. Proseguiva però sempre l'azione del Tiroler Volksbund diretta a istituire scuole tedesche in alcune zone del Trentino e al tempo stesso aprire la via al protestantesimo. In particolare cercava allora di aprire una scuola tedesca a Foldalia. Il 28 luglio 1914, con l'aggressione dell'Austria alla Serbia, iniziava il primo conflitto mondiale. Le diete e il Parlamento vennero sospesi e sospesa pure la Costituzione. Il 12 agosto il vescovo rivolgeva un indirizzo al clero, esortandolo ad operare per il sollievo della popolazione e ad esercitare in modo generoso le opere di misericordia spirituale e corporale, con l'assistere le famiglie più colpite dalla guerra. Sia il seminario che il collegio arcivescovile, per ordine dell'autorità militare, vennero adibiti a ospedale per le truppe. Per lunghi anni il clero trentino e il suo vescovo subirono le drammatiche vicende della guerra. Il vescovo Endrici, esiliato dopo l'intervento dell'Italia in guerra, ad Heiligenkreuz nella selva viennese, 60 sacerdoti confinati e internati perché sospetti di irredentismo, altri numerosi in cura d'anime al fianco dei profughi nelle lontane terre della Boemia e della Moravia e in altre province dell'impero, altri ancora presso i profughi trentini in Italia, nei vari campi di raccolta istituiti nel Regno. Così il clero trentino e il suo vescovo condividevano le sofferenze dell'intera popolazione fino alla pace che avrebbe visto il Trentino unito alla madre patria italiana. Ringrazio il professor Benvenuti per questa relazione così fortemente polarizzata intorno al tema della forte interrelazione che è esistita tra la vita religiosa e quella politico-nazionale nel Trentino, nel più vasto territorio della diocesi di Trento. Di questa relazione vorrei sottolineare alcuni punti che poi potremo riprendere le caratteristiche dei singoli episcopati e nello stesso tempo anche il contributo ai criteri, ai principi che stanno alla base delle nomine episcopali della monarchia sturgica, un tema sul quale aveva attirato l'attenzione degli studiosi un grande storico austriaco, Friedrich Emiliano, che è stato seguito poi da una sua allieva, Edith Sauer, e sul quale il professor Benvenuti ha offerto nel suo libro e oggi contributi importanti per quanto riguarda la particolare situazione trentina. Le posizioni della Chiesa di fronte alla politica asburgica, soprattutto in quel periodo tra il 68 e il 74, quel piccolo, se vogliamo chiamarlo così, Kulturkampf austriaco, e che quindi sottolinea la costante opposizione della Chiesa trentina ad una politica laicista, di una politica comunque di diffusione liberale, il problema dell'equilibrio, e qui ritorniamo anche a quello che dicevo nell'introduzione, ragioni storiche hanno creato in un territorio dove poteva esistere una diocesi monolingue, una diocesi mistilingue, quindi si sono creati compresi problemi di equilibrio nazionale, se da un punto di vista politico le autorità asburgiche potevano essere contente di in un certo senso contemperare l'elemento italiano del Trentino con la parte tedesca della diocesi, questo indubbiamente nello stesso tempo ha dato luogo ad attriti e afflizioni abbastanza importanti. E poi l'ultimo tema, il rafforzarsi della coscienza nazionale anche all'interno del cattolicesimo trentino nel periodo dell'episcopato in Brici. Se più o meno in questi anni Victor Adler poteva dire del socialismo asburgico il fuoco è penetrato anche nella nostra casa, o sta penetrando nella nostra casa, la stessa cosa inevitabilmente di fronte all'urgere del problema delle nazionalità è vera anche per tutto il cattolicesimo asburgico nelle sue diverse sfumature, che non può assolutamente essere insensibile al problema dell'acuirsi dei conflitti nazionali. Conflitti nazionali che sono indubbiamente molto più forti nel litorale, nella Venezia Giulia, e su questo tema riferirà adesso Paolo Blasina, che ha già dato anche pubblicati importanti contributi sull'argomento, che si occupa da quello che sono in maniera particolare della fase immediatamente successiva, cioè quella del 1918, e che per il nostro convegno, per il nostro seminario, ha accettato invece di vedere le radici dei problemi che più gli stanno a cuore, e che quindi riferirà appunto su chiese, problema nazionale della Venezia Giulia nel periodo dal 1870 alle origini.